Le varie modalità di adesione si possono trovare sul nostro sito, detto appunto in precedenza. Cliccando sul banner specifico si vanno a scoprire e si possono scegliere i vari modi. Si va a salutare Maya e Nicola Locci in Sardegna, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Valerio Michetti e Alessandra Bersiani della Grazia Obliqua, che peraltro suoneranno qui a Roma, se non ricordo male, il 23 aprile, sabato 23 aprile. Poi Marco Milanesio di Disordine, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Naresh Ran, che non ha bisogno di presentazioni naturalmente, Sasha Rovelli della Luce Sia, Gianluca Becuzzi, Rosa La Vita, anche lei valente musicista sperimentale, Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project, che suonerà qui a Roma domani sera, naturalmente insieme a Massimo Mascheroni degli Others. E poi Tabula Rasa, Ise Tual, Alessandra qui a Roma. Ancora Daniele, Attila Folklore di Mulo Muto, Francesco Cornello, dopo questi saluti andiamo ad iniziare e lo facciamo con un viaggio nell'ambiente europea, cominciando da un progetto svedese, un artista svedese che risponde al nome di Erik Meyercord. E di lui ci andremo ad ascoltare Our Mornings. Abbiamo vagato per l'Europa, ma soprattutto per gli abissi siderali. Un immaginario che poteva essere evocato da questi due artisti, dallo svedese Erik Meyercord e dal portoghese Derlit Riley e João Sousa, che in realtà sono la stessa persona, con un brano leggermente più ritualistico e sacrale, soprattutto agli inizi, con tanto di gong e campana. Claustro M. Ruinas. Abbiamo sfruttato naturalmente New State of Flux, l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella, uscita su Reverse Alignment. Altra entità parallela è ben più conosciuta, Nesplay Sounds Group. Saluto Like Wake, il buon Stefano Di Serio. Risaluto Alessandra Trinity Bersiani, Massimo Oders Mascheroni, lo ricordo domani sera in Sokushi Butsu Project. Gianluca Becuzzi. E proprio con lui andiamo avanti. Andiamo avanti, qui invece ci inoltriamo nel mondo delle cover, un ottimo album di rifacimenti di vecchi, in parte cavalli di battaglia, in parte invece brani decisamente meno noti rispetto ad altre produzioni, ma la cosa più importante è che sono tutti interpretati egregiamente, sia musicalmente sia vocalmente, dal buon Gianluca Becuzzi. E quindi da Deeper questa sera ci andremo ad ascoltare The Hall of Mirror, naturalmente dei Kraftwerk, e The Garden degli Einsturzende Neubauten. E qui Becuzzi non fa rimpiangere assolutamente Blixabargeld. Unless it's pouring. Allora, era Deeper di Gianluca Becuzzi. Un'operazione di coveraggio, di reinterpretazione di vecchi cavalli di battaglia di varie epoche, anni 70 e 80. E questa sera ci siamo goduti una versione, diciamo, soltanto per voce, chitarra e linea ritmica dell'elettronica All on Mirror di Kraftwerk. E quindi, da notare, niente sintetizzatori. E poi The Garden degli Einstürzen Neubauten, dove Becuzzi ha magicamente mixato la propria voce, ha sovrapposto la propria voce soltanto con un field iniziale. Indubbiamente due interpretazioni affascinanti, intense, da parte di Gianluca Becuzzi, ma d'altronde il talento lo conosciamo, e quindi anche nel campo del coveraggio, peraltro non è la prima volta che Becuzzi lo attua, riesce a dare il meglio di sé. Dunque Deeper, che esce per la Lucesia, etichetta svizzera di Sasha Rovelli e Nebojša Basić. Naturalmente ce l'andremo ad ascoltare anche il prossimo mercoledì. Arriviamo qui a Roma. Progetto al femminile dal nome Nido con Jonita Prifty, di origine albanese. Ci andiamo ad ascoltare altri due passaggi di Carnica, questo concept album dedicato alle vicende della Prima Guerra Mondiale, della guerra sulle Alpi friulane, con queste staffette al femminile che portavano viveri ai soldati italiani in battaglia. Ed è incentrata sulla storia di un personaggio, appunto, una di queste donne che muore ammazzata appunto da un cecchino austriaco. L'album esce per l'etichetta romana ultrasotterranea My Own Private Records, che è di riferimento al Fanfulla qui a Roma, un locale molto interessante che peraltro è stata proprio la sede di questa performance live. Ci ascoltiamo Il Tiro e Rosa. Thank you. ieri sondati, quanti militari spalla a spalla. Divergenze di suono, infuriare sabbia, sassi per costruire strade, a sferruzzare calze. Granate senza scarpe o stivali, oassi per baracche. Dal canto opposto, da dove ero, vengo trasportata da avambracci. Si chiama Nido, l'opera si chiama Carnica, sullo sfondo la prima guerra mondiale e le atrocità della guerra descritte dalla, appunto, da una carnica, un gioco di parole sia geografico e sia personale. Ho impasto entro notte di caverna. Ed è vero ciò che ci dice Moschita di Miramar dall'Olanda, e la saluto, sul fatto che ci ha rimandato, a me e a qualcun altro, lo stesso Becuzzi, a Laurie Anderson. Bruciature dal gelo. Synth, linea di basso e voce filtrata, veramente alla Laurie Anderson, effettivamente. No. Saluto Death De Carlo di Violet da Knox, che ci sta ascoltando da Boston negli Stati Uniti. Fabio Olivero di Black Lava, che ci ascolteremo più avanti. Saluto di nuovo Sasha Rovelli di Lucesia. L'onda è centro di elastica. Energia. Credo uno dei progetti più originali di questo 2022. Vaglie sfregate, pressione a carico di rottura. Andiamo invece nel campo delle cose ancora più astratte e sperimentali, a tratti anche spezzate, e sto parlando di Dayson, questo Magnetic Debris volume 1 e 2. Esce per la Dissipazione, un'etichetta che ormai è di casa qui a Prove Tecniche di Trasmissione, etichetta fondata da Nicola Quiriconi. Ci ascoltiamo Hidden Light e Black Tape. Magnetic Debris, ultimo lavoro per Cristiano Deison con la Dissipazio di Nicola Quiriconi. Architetture scricchiolanti, rumori d'ambiente, raggelanti rumori d'ambiente, anche se poi il tutto sembra che si svolga in un abisso marino, questi rumori così plumbei e soffocati. Interessante effettivamente la label di Nicola Quiriconi, che ha sfornato lavori di artisti molto interessanti. Fino ad ora ci siamo ascoltati opere abbastanza recenti, praticamente ultime uscite, e ora invece torniamo indietro di molti anni e arriviamo al 1993. Lui è Lunus, attore anche in Teatro Satanico, e questa è Mono Lilith. E quindi questa è la vecchia scuola industriale italiana. Album breve ma intensissimo, e questa sera ho scelto Il cibo per piccole larve.